Questo programma è una rassegna, un piccolo festival che si svolgerà su 3 giornate, venerdì, sabato, domenica, venerdì 18 giugno, sabato 19, domenica 20, in 2 luoghi distinti ma congiunti. E questi 2 luoghi sono la Biblioteca Comunale di San Giorgio di Piano e la Biblioteca Italiana delle Donne, il Centro delle Donne di Bologna. Da questi 2 luoghi nasce un po' anche l'idea di tutto il progetto, un progetto che porta questo nome, Elette, ed è un progetto promosso dal Comune di San Giorgio di Piano, in particolare in collaborazione con l'assessorato alla cultura, con Mattia Zucchini, una collaborazione che prosegue da tanti anni, felicemente direi. L'idea è quella di creare un network tra biblioteche come quella di San Giorgio, che consideriamo più lontane dal centro urbano, da Bologna, e sono biblioteche di carattere comunale, e una biblioteca altamente specializzata come la Biblioteca Italiana delle Donne, che è gestita dall'Associazione Orlando in collaborazione, in convenzione con il Comune di Bologna, e che è una biblioteca dedicata, come spesso ricordiamo, esclusivamente ai saperi e al protagonismo delle donne. Lo voglio ricordare perché è la seconda biblioteca europea specializzata ed è infatti un patrimonio che ci sembrava giusto rendere più fruibile e mettere a disposizione anche delle donne che non si trovano esattamente ubicate vicino nel cuore della città. Per quanto riguarda la scelta delle autrici, abbiamo scelto 3 voci significative del presente, voci di donne che hanno attraversato i confini, li hanno varcati anche e soprattutto attraverso la scrittura, non solo fisicamente. Abbiamo scelto delle voci di donne che portano in sé tutta la complessità, la bellezza di quella che chiamerei una prospettiva intersezionale, quindi sono donne, hanno provenienze differenti, culture, lingue differenti, ma hanno scelto il nostro paese, la lingua italiana, per esprimere questa loro complessità. E venerdì saremo con Bissal Ubabi e sabato con Adisha Uyangoda, che sarà presente sia venerdì che sabato, saremo a San Giorgio di Piano, e infine domenica chiuderemo la rassegna con Elvira Mucic al Centro delle Donne di Bologna. E cosa intendete con femminismi sommersi? Abbiamo parlato di femminismi sommersi perché questo progetto nasce in collaborazione con l'associazione Falling Book, che è un'associazione femminista che nasce proprio nel territorio dell'Unione Rena Galliera. È un'associazione che da anni lavora su quello che potremmo considerare una pratica di lettura condivisa, che va secondo me un po' al di là, supera, varca il concetto di gruppo di lettura e lavora molto sul ritrovarsi attorno a un libro per creare una sorta di safe space. Questa idea è quella, diciamo, che è anche alla base di tutto il progetto, che anima il progetto, perché Elette si è articolato come un progetto con più azioni, e queste azioni sono andate tutte nella direzione di creare intorno alle biblioteche, intorno al libro, intorno alla lettura, dei luoghi di consapevolezza, condivisione, degli spazi di autodeterminazione delle donne. Quindi quello che abbiamo voluto individuare in questi femminismi sommersi è questo filo rosso che unisce il centro alla periferia, che unisce i luoghi della cultura delle donne e anche delle pratiche politiche delle donne, come il Centro delle Donne di Bologna, con luoghi più lontani ma che ugualmente hanno trovato il modo per dare voce, per dare spazio alle donne. Quindi questa idea è proprio l'idea di creare un network che in qualche modo superi il concetto tradizionale di biblioteca, che senz'altro è un concetto a noi caro, e superi anche l'idea di servizio pubblico di promozione alla lettura, intendendolo andando verso quella che è secondo noi una dimensione molto importante, che sono gli spazi delle donne e la loro autonomia. Come facciamo per partecipare? C'è bisogno di prenotarsi? Allora, gli eventi si svolgono tutti all'aperto. L'idea è di abitare appunto i giardini, e quindi sia a San Giorgio di Piano, dove saremo ospitate nel giardino della biblioteca, che al Centro delle Donne, dove saremo invece nel giardino La Vigna Fontana. C'è una disponibilità, una capienza di spazio abbastanza ampia, considerato che abbiamo a disposizione uno spazio all'aperto. Il consiglio è di fare riferimento per prenotarsi quelli che sono gli indirizzi mail della biblioteca e del Centro delle Donne, Associazione Orlando.